conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, bentornati per un sabato mattina insieme alla nostra compagnia dei conti della belva, che vi faccia insieme interloquire con noi su alcuni dati di come va l'economia e su alcuni problemi di fondo che si aprono nella settimana e che resteranno aperti per mesi. Sapete qual è lo spirito della nostra trasmissione, del resto, quello che è la carica, per così dire, quindi questo è il modo. Suonate la carica! È il modo per autoironizzare su noi stessi, ma anche per invitarvi naturalmente a telefonare e a intervenire in diretta. Il numero è 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. In studio in questo momento, siccome i compari arrivano in questo momento a ondate, insieme a me c'è Mario Seminerio, cioè Mario Seminerio, ma Carlo Alberto ci raggiungerà tra poco. Carlo Alberto Carnevale Maffè, e così Renato Cifarelli interverrà più avanti. Come sempre vi faccio una sintesi dei temi che tratteremo e che trovate del resto, se avete un computer sotto mano, andando ad aprire sul sito di Radio 24, dove c'è sulla sinistra la colonna delle trasmissioni, cercate i conti della belva, i conti della belva, vi appaiono lì i temi di oggi con i documenti per approfondire, gli ospiti con cui cercheremo di capire diversi punti di vista sui temi che tratteremo. Quali sono i temi che trattiamo in scaletta? All'inizio, come sapete, è nostra buona abitudine, partiremo con alcune analisi sui dati della settimana, e ci sono dati su cui riflettere, perché innanzitutto c'è il Fondo Monetario che abbassa, purtroppo il verbo è questo, le attese di crescita complessive mondiali per macro aree, un po' meno quelle dell'Europa, però c'è il problema dei paesi emergenti, e questo problema ovviamente si riverbera su minor commercio mondiale atteso, minore crescita, minore export. C'è un secondo blocchetto di dati che ci riguarda per forza, perché riguarda l'Europa, e sono i dati dell'agosto tedesco, cioè precedente agli effetti, tutti ancora da verificare, della truffa mondiale incredibile della Volkswagen, che vedremo più avanti. Ma intanto ad agosto cali record, purtroppo, come non si vedevano dal 2009, dell'export, dell'import, degli ordinativi industriali, della produzione industriale, che portano a una revisione al ribasso per un terzo di punto la crescita tedesca quest'anno. Cosa significa questo per l'Italia? Punto interrogativo, ce lo chiederemo. Abbiamo poi un altro set di dati che riguarda i mutui. Avevamo parlato di questa discrasia incredibile tra l'aumento delle erogazioni per mutui stimata dall'ABI più 86%, quello che ci dicevano le agenzie fiscali, e vi spiegheremo perché Mario Seminerio si è applicato a capire da che cosa dipende questa discrasia. E in effetti i mutui sono un po' meno, parecchio meno di quelli che l'ABI strombettava. Dopo aver esaminato queste questioni, iniziamo un grande blocco su il congelamento, che è il freezing, questo freddo siberiano che è caduto tra Confindustria e tutti i sindacati sul rinnovo dei contratti. Sono una trentina i contratti che da questo autunno a metà dell'anno prossimo scadono nel mondo privato, quindi è una faccenda che riguarda milioni di italiani. Qual è il punto di fondo? Il punto di fondo è col vecchio meccanismo di computo dell'inflazione, di recupero, di tutela del potere d'acquisto nei contratti, l'erogazione stabilita dai contratti che vanno in scadenza ha largamente sopravanzato l'inflazione reale, e quindi Confindustria, i diversi settori dicono: cari ragazzi, dovremmo chiedervi soldi indietro. È possibile chiedere i soldi in più indietro? Intanto io ve lo chiedo, cosa immaginate se qualcuno vi chiedesse i soldi indietro come lavoratori dipendenti perché ne avete presi troppo? Anche noi risponderemo no, però la domanda diventa duplice. Primo, come si calcola la tutela del potere d'acquisto negli anni di deflazione? Perché molti ci hanno scritto in questi giorni, ed è questo il punto sul quale inizieremo a rispondere, ma signori, questo paniere di inflazione non tiene conto dell'andamento reale della vita. È una vecchia questione, ma quando diventa centrale per i nuovi contrattuali bisogna riaffrontarla. E poi, come si calcola la produttività, visto che la faccenda è cambiamo il modello dei contratti per aumentare la produttività delle imprese e mettere lì la contrattazione del più del salario? Ecco, allora su questa questione telefonateci, noi ne parleremo con l'ex presidente dell'Istat Giovannini per come si calcola l'inflazione, e con la leader della CISL Furlan per capire quanto è diversa l'opinione dei diversi sindacati su tutti questi temi e soprattutto per cercare di capire se andiamo a una moratoria, siamo senza contratti rinnovati per un anno, che cosa diavolo succede. Confindustria su questo è stata molto dura, ma però le trattative vanno avanti, i chimici e gli alimentari entrano proprio la prossima settimana nella fase in cui ci sono già le proposte sul tavolo, quindi tenteremo di capire. Poi c'è un secondo altro grande blocco su la digital economy e la sharing economy, perché avremo con noi il presidente della regione Toscana. Il presidente della regione Toscana Rossi ha preso una posizione durissima contro Airbnb e insomma le multinazionali, per così dire, le organizzazioni multinazionali della sharing economy. Lui dice: queste sono capitale improduttivo, ha detto. Per noi Airbnb e la sharing economy invece è una cosa positiva, però ne parleremo direttamente con lui e diteci voi, ha ragione o torto il presidente della regione Toscana secondo voi ad attaccare frontalmente Airbnb, che ormai milioni di italiani anche usano? C'è dietro anche una difesa del vecchio settore alberghiero? Vi ricordo che queste parole del presidente della Toscana vengono dopo l'ordinanza del comune di Roma per il giubileo, che anche lì è emanazione diretta dell'interesse dei vecchi albergatori. È l'espressione di una paura o c'è del vero in questo fatto che servono catene digitali, sì, ma solo corte, perché se sono lunghe e multinazionali, allora ohimè, lo spettro dello stato imperialista, le multinazionali, dei profitti che vanno altrove va affrontato. Quindi telefonateci anche sulla questione Airbnb. Noi parleremo anche della sentenza della Corte Europea contro Facebook, perché i giudici europei hanno immaginato che la rete che è stata fatta per tutto il mondo in realtà debba declinarsi con l'immagazzinamento dei dati entro i confini nazionali. A noi sembra una contraddizione, però tenteremo di capire anche cosa c'è dietro. C'è dietro la tutela dei giganti di internet europei che non ci sono, e quindi la guerra ai giganti di internet americani? Ecco, bisognerà vedere, però i punti di vista sono diversi, la sentenza c'è stata e nel frattempo iniziamo a capire, mentre ci raggiunge dentro nello studio Carlo Alberto, si sistema l'impostazione. Chiedo a Mario: che cosa ti ha fatto arrabbiare in settimana? Ma guarda, io sono molto perplesso da alcune reazioni giornalistiche alla vicenda dell'ormai il quasi ex sindaco di Roma, nel senso che io vedo delle sorte di investigazioni del giorno dopo, di vicende che sono note da una vita e che erano già state coperte 5 anni fa e che oggi ritornano fuori, non in maniera di rievocazione, ma quasi come se fosse, diciamo, una pista ancora calda. Parli di Repubblica e delle vicende di Filadelfia. Sì, vabbè, io capisco fare una sorta di archivio, repertorio e quant'altro, però magari conviene precisare la differenza per non fare un po' qualcosa che somiglia veramente a maramaldeggiare. E dopodiché noto, sempre visto che oggi mi sono svegliato così con il desiderio di puntualizzare alcune cose sui giornalisti, noto che c'è un filone del retroscenismo politico italiano che insiste con le virgolette. Nel senso, virgolette, Renzi, anche Marino ce lo siamo tolto. Ora, sarebbe utile citare la fonte quando si scrive un articolo del genere, visto che il Presidente del Consiglio non ha smentito, sarebbe utile capire se effettivamente ha detto quelle parole. Perché noi di avere retroscenisti che sembra che siano direttamente infilati, diciamo, nel portafoglio del Premier, diciamo che è un problema etico e deontologico. Scusate se vado lievemente fuori tema rispetto a quelli che sono i temi importanti della trasmissione, però io credo che se si fa informazione in questo paese, io non sono nessuno, sono semplicemente un fruitore dell'informazione italiana e non italiana. E siccome alcune circostanze vedo delle differenze che sono veramente stridenti tra, diciamo, parrocchialità, provincialismo e guerre per bande, direi che dopo non conviene nemmeno stupirsi se le vendite vanno dove vanno. Non è l'unica motivazione, però concorre. Che dire, esatto. Però concorre. Caro Alberto, allora, intanto buona giornata e un saluto. Buongiorno, ti devo dire cosa mi ha fatto arrabbiare. Il fatto che, nonostante tutto quello che sta succedendo a livello europeo e italiano sulle banche, ancora l'altro ieri, ineffabilmente il nostro fondo interbancario per la tutela dei depositi decide di deliberare un aumento di capitale, come dire, a prescindere, su un'importante banca italiana commissariata, che è Banca delle Marche, dicendo sì, noi deliberiamo, però è chiaro che è tutto soggetto alle approvazioni della Unione Europea, la quale ha fatto una procedura di infrazione esattamente per lo stesso problema, esattamente per un'altra banca, di fatto gettando fumo negli occhi alla gente, invece di affrontare con franchezza il problema, diciamo, del risalvataggio bancario, che sarà nell'agenda del governo e nelle istituzioni nei prossimi 2 mesi, perché da qui al 31 di dicembre dobbiamo trovare una soluzione situazione prima che scatti il bail-in, che scatta dal 1 gennaio 2016, cioè prima che scatti la regola che impone il coinvolgimento dei risparmiatori, degli obbligazionisti e degli azionisti nel salvataggio bancario. Serve molta più chiarezza. Io ho apprezzato quello che ha detto Ballarò l'altro giorno, ma dobbiamo farlo tutti, noi diciamo commentatori, voi giornalisti, ma soprattutto le istituzioni. Allora, io quello che ho detto a Ballarò non tutti sono tenuti, anzi nessuno dei nostri ascoltatori è tenuto a sapere cosa ho detto. Il problema è che c'è un fortissimo condizionamento su questi temi nell'informazione italiana, perché molte proprietà, molte aziende editoriali, per il loro indebitamento, il loro cattivo andamento, talvolta penso al RCS, a quello che succede, l'amministratore delegato che se ne va e alla perdita della R, visto che Rizzoli l'hanno venduta, dopo anni e anni stanno ancora con l'acqua ben alta, ecco, tutto questo ci consegna un panorama nel quale fare informazione doverosamente puntuta sui temi delle banche che ballano, dei tempi stretti, dopo anni e anni in cui non si è messo mano al tema, quando le regole erano diverse, la bad bank e così via, ecco, l'attuale struttura proprietaria dell'editoria italiana purtroppo spinge a non farlo. È molto complicato farlo. Voi giustamente da casa dite, vabbè, cari ragazzi, se sei giornalista ci devi provare comunque. Sì, però guardate che le proprietà su questo non vogliono mai sollevare problemi, neanche con le banche che sono nell'equivalente della procedura concorsuale praticamente. Perché? Perché bisogna sempre stare molto molto attenti a chi sta nel consiglio di amministrazione, eccetera eccetera. Allora, in altri paesi, per venire a una vicenda delle ultime 36 ore, se un vicepresidente della seconda banca italiana venisse coinvolto in un'indagine come quella che riguarda il caso di Bulgarella, il siciliano trapiantato in Toscana, da anni attenzionato dalle procure perché sostenitore, amico, prestanome di Matteo Messina Denaro, uno dei leader della mafia da decenni non acchiappato, ecco, in altri paesi sarebbe uno scandalo clamoroso. Qua è tutto nelle pagine tecniche di economia con dei toni trattentissimi. Ecco, purtroppo questa è una realtà dell'informazione economico-finanziaria italiana. Ci sentiamo tra un minuto. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... della belva. Eccoci qui tornati, e questo è compari dei conti della belva. Questo è il sabato precedente alla legge di stabilità che è attesa per giovedì prossimo, quindi per questo oggi questa analisi dei dati che facciamo ritualmente con la rubrica H punto della crisi. Sto vivendo una crisi, una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa questa rubrica. Dobbiamo cambiarla però, se dobbiamo dire sto vivendo una piccola ripresa congiunturale tuttora fragile, peraltro legata a fenomeni esogeni. Ecco, io direi che, però non so se c'è un pezzo musicale. No, che un pezzo musicale così non c'è, bisogna vedere se dovremmo seguirlo con il Vincerò, magari con Renzi che lo canta. Però detto questo, questa settimana questa rubrica ha una particolare importanza perché, ve lo abbiamo già spiegato dalla nota di aggiornamento del DEF, tutta la legge di stabilità, l'aumento del deficit e così via e il debito che deve scendere è appeso a delle attese di crescita molto solide con l'inflazione elevata, mentre invece a settembre la nostra aveva un segno negativo e i segnali che arrivano dal resto del mondo insomma restano di segno opposto rispetto a quello di una crescita. Allora, da cosa cominciamo, Mario? Ma allora, la congiuntura mi pare che stiano ormai commentando tutti che c'è un rischio di rallentamento, no? Questo è un dato di fatto. Il dato di produzione industriale tedesca di agosto è brutto. Allora, siccome un dato non fa una tendenza, certo, e siccome gli analisti hanno detto che sul dato tedesco di agosto pesano alcune festività mobili che quindi non sono destagionalizzabili, sarà anche tutto vero. Lo stesso discorso può essere fatto per il brutto andamento dell'export tedesco sempre in agosto, o anche per l'eccellente andamento della manifattura francese in agosto. Qui siamo vittime della statistica, no? Come sempre. Però che ci sia un problema di rallentamento congiunturale mi pare oggettivo. Quindi bisogna cercare di capire che a quale scenario andiamo incontro e su quale scenario si può modulare e modellare una legge di stabilità. Il dato di produzione industriale italiana di agosto, meno 0,5 sul mese, gli analisti aspettavano meno 0,3, vabbè, non è nulla, però certo. Questo è un dato dove la componente manifatturiera gode per l'ennesima volta dell'enorme apporto delle auto. Cioè ieri è uscito il comunicato di ANFIA, no? La Federazione dei Costruttori Automobilistici Italiani, che dice abbiamo aumenti in doppia, addirittura in tripla cifra, sì, sulla produzione nel corso dell'anno. La produzione italiana di auto nel 2015 è attesa a 650.000 unità e sono 200.000 unità in più dell'anno scorso. Quindi è vero che non è che si possa isolare dal contesto, però riconosciamo che Fiat Chrysler, con la sua ripartenza produttiva da Melfi, anche da Mirafiori, eccetera, sta dando una spinta incredibile alla manifattura di questo paese. Allo stesso modo in cui, se vogliamo guardare l'altro piatto della bilancia, Ilva, che è sempre più agonizzante, sta rischiando veramente di crearci enormi problemi, perché è un'azienda morente. Ce li crea. Non solo per le note vicende giudiziarie, ma anche perché c'è una sovrapproduzione di acciaio mondiale che rischia di travolgerla. L'anno prossimo i cinesi puntano ad ottenere lo status di economia di mercato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Se questa cosa passa, noi non saremo più in grado di imporre dei dazi antidumping, o sarà molto difficile. Non è un caso che il governo italiano, questo lo hanno segnalato veramente in pochi, si stia opponendo a dare alla Cina lo status di economia di mercato. Per cui, situazione estremamente fluida. Perché non vuole essere l'unico che è rimasto con lo status di economia socialista, è questo che no, può darsi. Capitalismo di Stato si chiama nella definizione della WTO. E quindi, comunque, malgrado il dato della manifattura, che si deve più della crescita, per l'industriale, eccetera, se uno va al di là del dato mensile, sul dato del trimestre, sul trimestre precedente. Sì, il dato estivo, giugno-agosto, sul precedente dato primaverile, marzo-maggio, indica una produzione industriale piatta. Un aumento cioè zero. Variazione zero. Già. E però questa non è solo una cosa nostra, ribadisco, perché sì, anche sì, i dati francesi sul trimestre mobile sono altrettanto o forse lievemente più deludenti, quelli tedeschi pure. Quello che io voglio dire, siccome c'è una corrente di pensiero e di propaganda che dice che questo paese riesce a fare meglio dei propri concorrenti anche in presenza di congiuntura incerta, questo è un atto di fede, non è una dichiarazione suffragata da fatti. Vedremo. Se mi presentate i fatti, vedremo, lo valutiamo. Cioè, sta di fatto che è in corso questa settimana un rally delle borse molto sostenuto. Perché? Perché le banche centrali, in realtà sia la Fed, ma anche le parole di Mario Draghi di ieri, dicono: ragazzi, siccome gli obiettivi qui non si determinano, allora aspettatevi che noi, Draghi ieri l'ha detto per l'ennesima volta, ha detto due cose. Una, ai mercati, benissimo, aspettatevi che io sia la data di termine del QE, sia la sua tipologia di interventi, se necessario noi lo protraiamo e lo cambiamo. Quindi, e i mercati è ovvio che pompano soldi. Ha anche detto però Mario Draghi ieri ai paesi indebitati, credo che l'Italia, esatto, sia tra quelli, esatto, guardate che si chiude poi la finestra del vostro vantaggio, cercate di fare sui conti, di non fare stupidaggini. Secondo me un segnalino, ecco, anche per l'Italia c'era. Voi che dici, caro Alberto? Dico che il grande mostro dell'inflazione che ci ha accompagnato quando eravamo ragazzotti oggi non torna più, non sappiamo come torna, e quasi quasi lo invochiamo e non sappiamo neanche più come evocarlo. E quindi, finché il governo mette nei conti della legge di stabilità un'assunzione di inflazione completamente fuori standard, io rimango preoccupato del fatto di una cosa completamente esogena che nessuno al mondo riesce più a controllare e che pure è fondamento della nostra legge di stabilità. Quindi rimango preoccupato come l'altra volta e spero che oggi chiariremo questo punto. Allora, poi c'è un dato sul quale bisogna tornare, perché ovviamente i mutui immobiliari, la casa scatena molto, no? le attese degli italiani, i conti degli italiani, le scelte degli italiani. E quando l'abbiamo, questo già settimane fa, noi ci siamo già tornati, disse quello più 86% di erogazioni Nei primi 7 mesi rispetto all'anno precedente, nel 2015, sia pure a netto di un terzo più o meno di surroga, però l'aumento rimaneva molto molto molto rilevante. Poi ci siamo posti il problema: ma dove sono i segni di questa roba, Mario? Allora, io sono andato a scavare nella banca dati statistica della Banca d'Italia, che è una vera miniera d'oro. Invito tutti, almeno chi è in grado di farlo, a farlo, diciamo, in un anno disaggregato per prestiti alle famiglie consumatrici, che è chiaramente l'indicazione, diciamo, di classificazione più vicina. In un anno abbiamo avuto un aumento dei prestiti in essere, quindi il netto tra concessi e scaduti e rimborsati, di 12 miliardi. Per ABI, nello stesso periodo, quindi gennaio-agosto, i soli mutui sono aumentati di 13,4 miliardi. C'è un flusso importante, esatto, rispetto allo stock, il doppio. Ma poi semplicemente la cosa ce l'avevamo sotto gli occhi, perché ABI parla correttamente di nuovi mutui, cioè nulla dice riguardo ai mutui che sono stati nel frattempo rimborsati o estinti o stralciati per insolvenza del debitore. Quindi facciamo un esempio numerico banale. Io sono una banca, mi rimborsano in un anno 10 miliardi di mutui, io ne concedo di nuovi per 5. L'anno prima ne avevo concessi di nuovi per 2,5. Io posso dire che ho aumentato i mutui del 100% sull'ordo, quando in realtà il mio totale di erogazioni è diminuito di 5 miliardi. Ora, siccome all'ABI sanno far di conto, non possiamo immaginare questa volta che si sia trattato di non è un caso di innumerasi, no? Il famoso analfabetismo numerico che piaga gli italiani, i politici e i giornalisti. Non è quello. È che, diciamo, no, siccome stiamo parlando di marketing algebrico, esatto. Siccome l'ottimismo è il profumo della vita, come diceva Tonino Guerra al famoso Gianni, è evidente che istituzionalmente l'ABI ha cercato di mettersi in scia e di dire: siamo di fronte veramente ad un boom. Cioè, non è un caso che Sforza Fogliani, il giorno dopo la pubblicazione di questi dati, abbia scritto ai giornali e abbia detto: i dati dell'ABI sono affidabili, ottimi e abbondanti. Però io dico una cosa: a me, siccome mi si rimprovera di essere un gufo, un negativo, un crepuscolare e tutto quello che volete, però ragazzi, se i soldi non li avete per fare un cavolo di mutuo, se il vostro reddito non cresce abbastanza per sostenerlo, sarà mai possibile che accendendo un telegiornale o leggendo un giornale veniate colti dal raptus di correre in strada, consumare, comprare un'auto e una casa? Cioè, questa è la mia domanda che mi manda ai matti. Mario, però lo sai che per decenni il sistema bancario ci è riuscito a far diventare gli italiani quelli che avevano nel loro orizzonte di scelta di investimento solo il mattone, loro vogliono tornare a una vecchia abitudine che tutti sono ancora convinti essere buona abitudine e che invece dal punto di vista dei rendimenti composti nell'arco vitale per chi ha basso reddito non lo è. Ma è l'unica area in cui le banche rischiano di vedere un minimo di redditività nei prossimi anni, questo dobbiamo dircelo. Allora, torniamo tra un minuto. Ma vi abbiamo spiegato che se leggete più 86% sui mutui c'è del marketing dietro, un po' politico, ma anche e soprattutto proprio che ha a che fare con quello che le banche sperano che facciate. Rifletteteci, rifletteteci. C'è del marketing in Danimarca, come avrebbe del detto Hamlet. Marketing, diciamo, in Danimarca, okay. Anche a Palazzo Chigi, esatto. Direi. Va bene, tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta a 10.34, primi 42 secondi, compare i conti della Belva, quindi oltre a Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio. E Renato ci raggiungerà, Renato ci farà lì dopo. Allora andiamo, apriamo la pagina dei contratti in cui rinnovo è bloccato, per così dire. È bloccato perché Confindustria ha chiesto ai sindacati una riflessione sul modello contrattuale. Perché? Perché ci sono due problemi in realtà. Il primo è che il meccanismo con cui si calcola l'inflazione nei contratti, che era già cambiato nel 2009, quindi i contratti in scadenza non avevano il meccanismo di prima, si è usato un indice armonizzato europeo dell'inflazione, però l'inflazione reale, come sapete, ne parlavamo prima, in anni di deflazione è stata molto più bassa del previsto e quindi è accaduto, dice Confindustria, che in questi anni rispetto a un'inflazione reale accumulata del 2% ci sono stati 4,6 punti percentuali in più di retribuzioni ai dipendenti. Questo ovviamente varia di contratto in contratto, c'è chi ha preso 40 euro in più al mese, chi 60, chi addirittura 80. Allora, prima questione, che si fa? Dicono i confindustriali: o cambiamo il modello di contratto oppure, cari signori, noi il prossimo contratto non solo vi chiediamo l'aumento zero, ma dovreste restituirci i soldi. Pensate che cosa avverrebbe di fronte a una cosa di questo genere. Anche perché, obiettano i sindacati, ed è vero, se andiamo a vedere il reddito, meglio delle famiglie italiane, il reddito disponibile, ecco, dal 2000 al 2015 è sceso del 20%, perché ci sono più disoccupati, perché eccetera, eccetera. E quindi dice, come chiederci soldi indietro? Allora la questione diventa: come si calcola l'inflazione, la tutela del potere d'acquisto, se non va bene l'indice precedente? Confindustria dice, beh, innanzitutto si cambia il modello contrattuale. Seconda questione, cioè si mette nei contratti nazionali una parte di salario minimo contrattato di categoria per i meccanici, diverso dagli alimentaristi, diverso dagli elettrici, eccetera, ma il più del salario, una parte molto più elevata, la si contratta aziendalmente in contratti di produttività, cioè legati ai risultati, all'utilizzo dei turni, degli orari, degli impianti, e noi abbiniamo due cose: più margine per l'impresa e più reddito in tasca, detassato. Il governo non ha detassato il salario di produttività negli ultimi due anni, tornerà a farlo, si è impegnato a farlo, e più reddito detassato ai lavoratori. Su questo, grande problema, perché la CISL pare, ma lo sentiremo tra poco con la leader della CISL, era disposta a discutere di questo. La UIL dice, no ragazzi, noi intanto rinnoviamo i contratti con il vecchio tipo, poi se ne parla, perché i contratti sono in scadenza adesso, tra l'altro oltre a quello dei chimici, degli alimentaristi, c'è quello dei metalmeccanici, 1.600.000 dipendenti, insomma sono milioni di persone di mezzo. La UIL dice, no, rinnoviamoli col vecchio metodo. La CGIL dice, cari signori, noi vogliamo tenere, non vogliamo cambiare il modello del contratto. Quindi c'è una forbice di opinioni molto diverse. Il governo, molto arrabbiato, dice, o vi sbrigate oppure noi facciamo un salario minimo per legge e poi ve la vedete voi. Salario minimo per legge sarebbe ovviamente molto più basso del salario minimo contrattato tra imprese e sindacati in ogni contratto nazionale. A questo i sindacati sono completamente contrari. Io vi ricordo solo un'altra cifra, che dal 2000 al 2012 il costo per lavoro unità prodotto nell'industria manifatturiera italiana, a netto delle costruzioni, quindi nella manifattura dura, nella manifattura core, ecco, dal 2000 al 2012 il CLUP è passato da 100 a 137, in Spagna da 100 a 115, in Francia da 100 a 110, in Germania nel 2014 era ancora fermo a quota 100, quota 2000, cioè noi abbiamo perso 37 punti rispetto alla Germania. Di che cosa è espressione questo costo lavoro per unità di prodotto? È una frazione. Nel numeratore della frazione c'è la retribuzione lorda. La retribuzione lorda è fatta ovviamente da cuneo fiscale e poi retribuzione netta lorda. Il cuneo fiscale è la differenza rispetto alla Germania, cioè è quello che ci fotte? No, perché il cuneo fiscale tedesco è praticamente quasi uguale a quello italiano. Sono le altre imposte che sono più basse. Allora, che cosa ci fotte? Al numeratore effettivamente c'è stata una retribuzione nominale netta e lorda, cioè quella contrattuale, più elevata dei tedeschi. Poi ci fotte molto anche il denominatore, non ce lo dimentichiamo, perché il denominatore che cos'è? È il valore aggiunto per occupato, e nel valore aggiunto per occupato pesa anche il fatto che le imprese investono poco, innovano poco, eccetera eccetera, non è mica colpa dei lavoratori che non lavorano. Quindi è un problema molto complesso, come vedete, e siccome è un problema molto complesso, noi cominciamo innanzitutto capire insieme i due aspetti della questione. Abbiamo due ospiti per la parte statistica, per così dire, quindi come immaginare una nuova tutela del potere d'acquisto che non siano i vecchi pannelli di inflazione, con Enrico Giovannini, l'ex presidente dell'Istat, ex ministro del lavoro. Buongiorno Enrico Giovannini. Buongiorno. E poi per parlare dell'aspetto sindacale, del confronto eccetera eccetera, è con noi arriverà tra poco, mi dicono, per la telefonata è caduta la linea, il leader della CIS, Anna Maria Furlan. Allora, cominciamo con Enrico Giovannini. Chi obietta le pretese delle imprese sono infondate, perché in realtà bisognerebbe tenere conto dell'andamento del reddito disponibile e non dell'inflazione. Ha torto o ha ragione? In parte ha ragione, in parte ha torto. Perché? Perché indubbiamente il reddito disponibile delle famiglie è calato molto in Italia, e questo in parte per la crisi, ma anche perché è aumentato il carico fiscale, cioè il cosiddetto aggiustamento fiscale ha fatto sì che lo Stato, invece di tagliare le spese pubbliche, ha aumentato la tassazione e questo naturalmente riduce il reddito disponibile delle famiglie. Ma non per tutti nello stesso modo, e questo lega la questione aggregata, diciamo, del dato complessivo a invece ai dati settoriali. Perché dobbiamo ricordare che in questa crisi, al di là della botta del 2009, molte imprese hanno comunque continuato a esportare, investire, far crescere i redditi e far crescere anche l'occupazione. Allora, noi dobbiamo riconoscere che rispetto al passato abbiamo una variabilità, una eterogeneità molto più forte nel settore, in tutti i settori economici, ma soprattutto nel settore manifatturiero, per cui accanto ad imprese che vanno molto bene ci sono imprese che vanno molto male. E allora un dato medio da questo punto di vista non aiuta naturalmente da un lato a remunerare i lavoratori che lavorano in settori che tirano e invece a evitare che imprese che lavorano nei settori perdenti siano esposte al mercato. Però questo sembrerebbe indicare che è appunto necessario, anche per la ragione che ha appena indicata, trasportare la contrattazione del più del salario dal vecchio sistema che la definiva nel contratto nazionale di lavoro ai contratti di secondo livello, o sbaglio, Giovannini? Beh, questa è una tendenza che sembra inevitabile, anche perché da un lato dobbiamo aiutare le imprese che crescono a trasferire appunto una parte dei redditi crescenti anche ai lavoratori, che hanno un merito straordinario nel realizzare poi quella produzione più alta. Dall'altro abbiamo bisogno di evitare che dei valori medi impediscano alle imprese che sono in difficoltà di aggiustarsi, ma qui rientra quello che lei ha detto poco fa, e cioè la performance complessiva di un sistema o di un'impresa non dipende solo dal costo del lavoro, sì. Dipende da molti altri elementi. Io nel mio ruolo attuale di vicepresidente del Comitato di Alto Livello sulla competitività e crescita in Europa, sto proprio cercando di evitare che la discussione sia solo sui salari. No, non c'è. Ci sono elementi come il costo dell'energia, il costo dell'innovazione e altri aspetti poi che non sono legati ai costi, che poi fanno veramente la differenza in termini di competitività. Allora è molto importante che consideriamo anche questi aspetti. Lei ricordava prima che abbiamo in Europa in generale, ma anche in Italia, un livello di investimenti molto basso rispetto al passato. E questo, come le analisi dell'Istat ci hanno mostrato, fa una differenza enorme. Se andate a guardare l'ultimo rapporto annuale dell'Istat o i rapporti sulla competitività che ormai ogni anno vengono prodotti, si mostra che le imprese che in questi anni sono cresciute hanno investito in innovazione anche in capitale umano, cioè in formazione dei lavoratori, oltre che nella ricerca e sviluppo per definire nuovi prodotti. Non c'è dubbio, bisogna guardare al denominatore della frazione, non solo al numeratore, perché non è che possiamo pensare di vincere nell'export mondiale facendo concorrenza sui costi, soprattutto del lavoro. Però c'è anche un tema a cui voglio chiedere attenzione di Giovannini. Il modo in cui misuriamo la produttività e la natura contrattuale di questa espressione va rivista. Cosa vuol dire dal mio punto di vista primo livello, secondo livello? Se abbiamo una funzione corretta di misurazione della produttività, i contratti sono molteplici, gli strati contrattuali sono molteplici e sono trasparenti. Secondo me c'è un problema di cultura della contrattazione, del contratto, misura della produttività, e posso dire, poi imbarreremo con la Furlan, se questi contratti diventano tantissimi è chiaro che il ruolo dell'intermediario che li ha sempre gestiti viene messo in discussione. Quindi c'è anche questo tema, no? Non voglio arrivare ai modelli organizzativi delle aziende californiane che addirittura usano gli smart contract, cioè i contratti intelligenti per regolare i contributi di ciascun lavoratore, però forse dovremmo interrogarci che il mondo altrove va avanti con modelli organizzativi diversi. Naturalmente, Giovannini, questo implica una rivoluzione non solo per il sindacato, che è molto facile criticare, io per primo, ma anche per le imprese, perché guardate che i sacerdoti del rito del contratto nazionale, certo, sono i direttori generali delle associazioni di categoria, chiaro. Non è che ci sono solo i sindacalisti, perché se gli levi il contratto nazionale, che fissa uguale per tutti il 96% della massa retributiva, indipendentemente dalla produttività, loro dicono cacchio, ci levano il giocattolo. Hanno un interesse intrinseco, un vested interest nel conservare un modello di contrattazione che li vede monopolisti dell'intermediazione, e questo non va bene. Va bene, allora adesso giriamo tutte queste stesse domande a Anna Maria Furlan della CISL, che ci ha raggiunto tra un minuto. Della Belva. Eccoci qui tornati in diretta, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ed è con noi Anna Maria Furlan, il leader della CISL. Buon sabato, grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, ha sentito, probabilmente stavamo parlando con l'ex presidente dell'Istat di come si fa a concordare su un criterio di tutela del potere d'acquisto dei lavoratori, e Giovannini diceva sì, però come si capisce, le medie oramai, visto che il reddito disponibile delle famiglie cala molto significativamente da anni, non allo stesso modo, esattamente come per le aziende, ogni storia di azienda è diversa, la realtà è che bisogna un pochino scegliere, condividere tra sindacati e imprenditori di spostare il più della trattativa sul salario non nel contratto nazionale. Io dico a chi ci ascolta e dice questa è la linea di Confindustria, non, da fuori può sembra, sì, certo, è la linea ufficiale. Guardate che però la stragrande maggioranza degli iscritti, delle piccole imprese, che sono la stragrande maggioranza degli iscritti a Confindustria, non è che siano proprio convinti se li prendete fuori dall'ufficialità di portare il più della contrattazione a livello aziendale, perché loro vivono in un'azienda dove il tasso di sindacalizzazione è molto basso, vedono questa cosa quasi come un rischio. Ecco, quindi è una tematica complessa, però alcuni ci dicono, gli ascoltatori con l'SMS, i tedeschi, i lavoratori guadagnano il doppio rispetto agli italiani, quindi cercate di trovare i punti di produttività del club che ci avete detto. Non è così che ne usciamo. Chiedo alla Furlan, primo, secondo lei, se i contratti si firmano comunque, quelli che erano avanzati, cioè quelli degli chimici, alimentari e così via, oppure se il congelamento è vero? E secondo lei, dirci, voi come la pensate sul potere d'acquisto e produttività? Quanta parte del salario siete disposti a spostare dal contratto nazionale nelle aziende e nelle produttività territoriali? Guardi, intanto il fatto di rafforzare moltissimo la contrattazione di secondo livello e attribuirgli forti competenze sulla produttività, io non so se è la linea di Confindustria, sicuramente è la linea della CISL. Noi a luglio abbiamo mandato a Confindustria, CGL e UIL, una nostra proposta di rinnovo del modello contrattuale che è scaduto, che è vecchio, che non funziona più e che quindi deve essere assolutamente rivisitato, che si basa essenzialmente su questo aspetto. E cioè abbiamo bisogno di mantenere un contratto nazionale che copra il dato inflattivo, il potere d'acquisto di tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici, tenendo anche conto che siamo un paese con piccole e medie imprese che contrattazione di secondo livello non ne fanno quasi nulla, ma abbiamo bisogno di spostare tutti i temi della produttività laddove c'è il lavoro e quindi nella contrattazione di secondo livello. I fattori della produttività sono tanti, vanno dall'organizzazione del lavoro, alla flessibilità, all'orario di lavoro, alla sicurezza, al tema della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, ed è evidente che più noi avviciniamo la contrattazione a lì dove si possono definire questi aspetti, più davvero la contrattazione di secondo livello rilancia la produttività delle imprese, che è inferiore a quella di tanti altri paesi europei, Germania in testa, 20 punti di differenza, e rende più pesanti le buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici. Certo, in combinazione a questo bisogna anche realizzare però un fisco più amico del lavoro. Per questo che noi abbiamo chiesto al governo di detassarla fortemente la contrattazione di produttività. Allora, se abbiamo da una parte un fisco più amico del lavoro, quindi delle imprese e delle buste paga, dall'altro un livello di contrattazione forte nei luoghi di lavoro e nei territori, non c'è dubbio che iniziamo a recuperare quel gap di produttività che ostacola la crescita. Per fare questo però ci vuole il governo che si impegna a detassare quello che è il contratto di produttività e le imprese, le organizzazioni sindacali che abbandonano questo braccio di ferro onestamente inconcepibile, anche un po' incomprensibile, e si mettono davvero a ridefinire la contrattazione. Le competenze del contratto nazionale, quello di secondo livello. Però, aspetta, interrompo per questo. Assolutamente non solo interessati. No, voi siete molto motivati, ma il problema è adesso, con i contratti, come si fa, visto che la UIL non la pensa come voi, perché dice no, i contratti rinnoviamoli col vecchio metodo, poi se ne parla. La CGIL ancora peggio, perché dice no, modificare l'impostazione del modello contrattuale già è una cosa sulla quale noi abbiamo fortissimi dubbi. E quindi cosa succede finché non siete d'accordo? Ma io mi auguro che prevalga il buonsenso, che significa che ci sono trattative già aperte e già avanzate e non c'è alcun motivo per non chiuderle. Quindi il contratto dei chimici, quello dell'agroalimentare, hanno già aperto la trattativa, le piattaforme sono presentate, che la chiudano e che la chiudano in fretta. Non è che però possiamo aspettare il termine delle trattative per iniziare a lavorare su un nuovo accordo sul modello contrattuale. Si possono fare benissimo entrambe le cose. Quindi queste due trattative, che sono assolutamente le più avanzate, che vadano avanti, che definiscono e concludono il loro percorso, noi però intanto lavoriamo e mettiamoci a lavorare seriamente sul nuovo modello. Guardi, io credo che se c'è la volontà, nel giro davvero di pochi giorni, con un tempo assolutamente compatibile, noi potremmo iniziare a realizzarlo, questo nuovo accordo sul modello contrattuale. Io onestamente ho difficoltà ad arrendermi all'idea che la contrattazione, che è la natura delle parti sociali, sia delegata a soggetti terzi. Credo e cioè che sia l'intervento del governo con un salario minimo per legge. E cioè l'intervento del governo. L'intervento del governo con un salario minimo per legge sarebbe, da questo punto di vista, esplosivo. Perché tutte, no? Ma sarebbe negativo, perché noi rischiamo, attraverso quello strumento, se mal utilizzato, di abbassarli i salari. Allora, noi siamo un paese che con tutti i nostri contratti, sicuramente troppi, vanno snelliti e vanno unificati, copriamo l'85% dei lavoratori e delle lavoratrici. È un 15% che resta fuori dalla contrattazione. Quindi lei dice bene la linea già intrapresa, che il salario minimo è solo per loro, per quel 15% esatto, che non è coperto da contratti. Vediamo come estendere la copertura a questi lavoratori, ma la scommessa vera è la contrattazione di secondo livello. Dentro la contrattazione di secondo livello la produttività, il welfare aziendale, e rispetto a questo io credo che l'azione delle parti sociali debba essere quella che determina le linee. Io azzardo un'ipotesi però, che col contratto dei metalmeccanici che scade a dicembre e col problema aperto che c'è tra CGIL come linea di maggioranza e FIOM dall'altra, che non è firma di contratti dei metalmeccanici da tempo, credo che la CGIL punterà perché questo negoziato non abbia i tempi che dice lei. Auguriamocelo, ma speriamo quantomeno di aver spiegato ai nostri ascoltatori come si può declinare insieme tutela del potere d'acquisto da una parte e produttività, che è il problema fondamentale del paese. Non ci sono solo i conti pubblici, la produttività è la cosa senza la quale non ci stiamo nei mercati mondiali. Grazie a Anna Maria Furlan, ci sentiamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. L'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati in diretta per questa seconda parte dei Conti da Belva con i compari Oscar Giannino, Carlo Alberto e Mario. E Mario, allora io direi che possiamo iniziare a sentire i nostri ascoltatori, prima leggendo un po' di sms e poi qualche telefonata. Gli sms che abbiamo ricevuto, quali valgono la pena, raggruppandoli per categoria di che problemi o osservazioni ci fanno? Ce n'è uno che, vabbè, è anche scontato, dice: ma Bonanni aveva il contratto legato alla produttività? Questo, vabbè, qui diciamo il contratto, non so, la pensione sicuramente. Cioè, esatto, legata alla produttività, no, da dire, quiescenza. Diciamo. Battuta cattiva, però fondamentale, perché gli italiani non dimenticano con le pensioni che hanno, che se poi si fanno i furbi con le pensioni retributive e non sappiamo i dati, perché con i Bonanni li sappiamo, delle altre migliaia e migliaia di agevolazioni individuali dei sindacalisti con i regimi previdenziali, non sappiamo i nomi perché sono coperte da privacy. Comunque qui non si può esagerare troppo con la produttività, vero Mario? No, perché qua ci scrive un, secondo me questo è Dickens che ci scrive dall'oltretomba e dice: la produttività esagerata mette in competizione i bassi strati sociali e gli industriali si fregano le mani. Io proprio, è un quadro dickensiano questo qui, eh? Anche questo però io credo che sia molto più diffuso nell'opinione pubblica di quanto noi crediamo, No, assolutamente. Io a questa produttività esasperata in Italia mi giro intorno, non la vedo, sarà che sono un po' miope e stigmatico. Però poi c'è un altro sms che secondo me sul quale bisogna riflettere: i migliori contratti li hanno i dirigenti, i quali, come Volkswagen, questo è un italiano un po' impervio però si è capito il senso, fanno disastri ed escono con una cifra che persone normali non vedranno mai. Ora io vorrei spezzare una lancia, ma anche una Volkswagen, anche se capita, anche, no? Anche una Skoda, anche una Skoda, esatto, e dire che questa è una tesi da Vox Populi sulla quale riflettere, perché conta il sistema paese, cioè sì. Noi non è che possiamo continuamente spremere gli sfigati che stanno alla base della piramide e dopodiché al vertice avere questa oligarchia predatoria che ha dei bonus all'ingresso, bonus di permanenza, retention, uscita, lasciano le aziende in condizioni drammatiche e vengono sempre e comunque premiati e cascano in piedi. State ascoltando la versione comunista di Mario Seminelli. No, però, non è versione però comunista. A volte capita che serve anche quella. Chi ama il mercato vero, esatto, vuole un mercato, esatto, che meritocratico, se premia i disastri, non è mercato, perché ti mette in condizioni, primo, non solo il mercato non è efficiente, ma secondo ti leva l'argomento per convincere che poi bisogna fare il mercato vero. Esatto. La sentenza all'Italia, che combina anni di carcere a ex manager usciti con milioni di euro dall'azienda, è una roba che al mercatista vero non solo ti fa pensare quello che dici tu, non possiamo spremere solo chi è sotto, perché è giusto, ma che qui il mercato non esiste, è tutto relazionale, troppo ancora relazionale, esiste, assolutamente, insomma, è troppo. Assolutamente. Quindi questo ascoltatore ci becca proprio su un punto che è fondamentale. No, ma infatti, perché dopo noi cosiddetti mercatisti, io poi non so più cosa, esatto, sono, ho problemi, esatto, a guardarmi, bravo, allo specchio, bravo, eccetera eccetera, ma ancora qualcuno mi definisce liberista, non lo so, alcuni comunista keynesiano eccetera, però diciamola tutta: se non si ripristina un sistema tra virgolette calvinista, no, in questo paese non ci riusciremo mai. Cioè, dopo facciamo il giubileo, generazione, no, esatto, no, ma infatti è la nostra contraddizione autoassolutoria. Noi continueremo a godere di pessima stampa, tutti noi che invochiamo il mercato. Non c'è dubbio. Comunque dai, fammi dire una cosa. Sono un bancario, un ascoltatore bravo, Fabio da Rimini. Sono un bancario che vi ringrazia con le lacrime agli occhi, capisci? Perché per le info che date, cari compari, quindi dai, un piccolo dato ottimismo, no, che, Però c'è un altro bancario che dice: tra noi bancari manca l'education finanziaria e la consapevolezza del momento storico, molti di noi sono solo un frullato di budget da raggiungere a brevissimo. Saggezza. Questo però ci dice dei modelli organizzativi delle banche italiane, perché la colpa non è di chi sta dietro lo sportello, caro Carlo Alberto. No, figurati, io che mi sono arrabbiato perché il rinnovo del contratto bancario assolutamente non ha voluto confrontarsi sul tema della misura della produttività e abbiamo buttato di nuovo la palla in tribuna sperando che arrivi non so che cosa, insomma qualcuno che salvi tutto. Sentiamo intanto anche qualche telefonata. Allora, Piero che ci chiama, qui continuiamo a dire da Monza Brianza, la provincia Monza Brianza, ma non erano abolite le province, no vabbè, comunque Piero, insomma, ecco, dici. Pronto? Eccoci qua. Buongiorno, volevo semplicemente parlare un attimino riguardo della sentenza della Corte Europea, sì, sulla privacy. Facebook. Sì, Facebook e tutti i colossi, esatto, diciamo, americani. Ora, diciamo, quello che probabilmente chi non è coinvolto, io ho una piccola azienda nel mondo digitale, quindi premessa è importante, quello che probabilmente non è percepito da chi non è un imprenditore, un operatore diretto in questo campo, è che ci sono delle regole sulle privacy, per esempio a livello italiano, che pongono le aziende italiane nel loro nanismo oggettivamente ancora più svantaggiate. Se io per esempio creo un'applicazione e devo mettere su un term of service, il contratto che regola il servizio tra l'utente e l'azienda, devo sottostare a tutta una serie di regole uguali a quelle delle assicurazioni, tanto sì, per dire, con sì, tutte le clausole, cioè tutti, con tutti gli smarcamenti possibili e immaginabili. E se per qualche ragione modifico uno di quei parametri, devo richiedere all'ingresso successivo dell'utente sull'applicazione che rifirmi tutto, che rismarchi tutto. Allora, diciamo, queste sono le regole che noi abbiamo. E diciamo, se invece voi prendete Google, Amazon, chiunque, quando loro cambiano le regole in maniera perentoria, senza basta che lei utilizzi il servizio, e quello equivale a un'accettazione. Questo per dirvi semplicemente che poi, per quanto riguarda il fatto che i dati debbano essere in Europa, non è così banale, perché vi faccio un esempio. Se io che ho a che fare con opere che hanno diritto il copyright, famoso copyright, ho tutte le mie opere memorizzate su un database che è quello di Amazon, mi dico AWS, gli Amazon Web Services, sì. Se diciamo, un mio competitor americano dice che io ho violato qualche regola, qualche cosa, e fa un'ingiunzione presso un giudice americano, per quanto io sia soggetto alla legge italiana, quel giudice può chiedere ad Amazon di chiudere il mio servizio, nel senso di non dare più accesso a quei dati residenti chissà dove, magari negli Stati Uniti. Quindi quando poi si parla di questo discorso di dove sono i dati, quali sono le regole che vengono applicate, bisogna starci molto molto attenti e guardare il problema nella sua complessità. Però Piero, guardare il problema nella sua complessità significa, siccome noi abbiamo regolamentazioni pesanti in Italia, crediamo di doverle estendere e imporre al mondo anche con la ritorsione di una sentenza? Assolutamente no. Però, allora bisogna fare il contrario. Perché assolutamente adesso il problema è che siamo svantaggiati, cioè bisogna partire da questo. Ho capito. Cioè le regole si mettono in questa condizione. Sì, ma il consenso in Italia che va a misure o a decisioni di giurisprudenza come quella della Corte di Giustizia europea deriva dal fatto che, cacchio, siccome siamo un paese ipertassato, ipervincolato, iperregolato noi, e allora facciamogliela vedere anche a loro, perché altrimenti ritorsione. Credo che ci isoliamo sempre di più da questo punto di vista. Cioè, questo è giusto, però d'altro canto, se continua a permanere questa differenza, saremo sempre più. Bisogna risolverla dando più forza in Italia a chi dice che invece di penalizzare la digital economy la dobbiamo liberare. Almeno questo è il mio punto di vista. Però c'è un tema di fondo, se posso. La privacy in Italia e in Europa è un diritto personale. Personale da tutelare col pubblico, perché il privato non è capace di farlo. In America è considerata poco più che un ostacolo alla libertà di commercio, e quindi, come dire, un eccesso di tutela in realtà va a danno del mercato. Sono le due culture profondamente diverse, no, che si scontrano. Scusi, lei avrà diciamo, sicuramente visto che in questi giorni c'è stata una grande polemica per tutto il discorso del blocco della pubblicità, gli ad blocker. Sì. Dire, lì è venuto fuori che quello che viene fatto, diciamo, da parte di chi gestisce questi dati, vuol dire, è totalmente inaccettabile. E di ieri, ancora non ho avuto modo di vederlo, diciamo, lo Stato della California ha legiferato in tema di privacy. I titoli parlano di una grande innovazione. Non so che cosa ci sia dentro, sono curioso di andarlo a leggere nei prossimi giorni. C'è un grande problema di privacy, non c'è un grande problema di privacy. Io credo che avere le 28 tutele nazionali che abbiamo all'interno dell'Unione Europea, perché questo è, noi siamo segmentati tra 28 segmenti nazionali, autorità nazionale di privacy, legislazione di privacy da una parte, e dall'altra quella di non imboccare la via di grandi accordi tra piattaforme continentali riguardano la tassazione, come la tutela dei dati, la tutela della proprietà intellettuale, ma quella dello scontro o giudiziale o diplomatico fiscale, io credo che sia autodannoso, però questa è la mia opinione. Quindi intanto grazie per il contributo tecnicamente anche molto apprezzato da parte nostra, ci sentiamo tra un minuto. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it vi presenta della Belva. Eccoci tornati in diretta alle 11:18 primi 40 secondi e abbiamo aperto nel blocco precedente con la telefonata che c'è stato il nostro ascoltatore questo secondo nodo di riflessioni intorno alla digital economy, sharing economy, e abbiamo con noi il protagonista di un dibattito a seguito di un suo intervento che questa settimana ha fatto giustamente molto discutere, è il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, che ha scritto in un suo blog a proposito di Airbnb, quindi piattaforma attraverso la quale avere un numero crescente di milioni di scelte di italiani, ma insomma di cittadini di tutto il mondo, a proposito delle sistemazioni alberghiere. E il titolo del suo intervento, che non è testuale rispetto a quello che lui ha scritto, però era un titolo di quelli destinati a far discutere, infatti la discussione c'è, e il titolo è questo: Airbnb è di sinistra, la gig economy e il capitale improduttivo, dove si spiega nel pezzo, per chi non lo sapesse, gig sta per lavoretto occasionale e su richiesta. Quindi il nocciolo di questo intervento è dire: le catene lunghe di disintermediazione a cui tutti inneggiano su internet, quelle multinazionali, sono in realtà un modello di lavoro poco dignitoso, poco, con pochi diritti, poco retribuito, non mi piacciono, io preferisco le catene corte nostre di disintermediazione. È una tesi molto forte, perché la sinistra di solito dice viva viva la disintermediazione delle vecchie filiere industriali, dei vecchi monopolisti. O no, Enrico Rossi, ci spieghi meglio. No, io non sono un luddista, nel senso che secondo me quella che chiamano sharing economy, che sostituisce le intermediazioni, è una grande opportunità, è anche un'opportunità di velocità, di relazioni sociali, di offerte commerciali, ma anche di relazioni umane che prima non esisteva e che bisogna assolutamente favorire da un lato, ma dall'altro anche regolare, perché altrimenti insomma si creano sempre disastri. Porto un esempio, appunto, è stato un giornale fiorentino, il Corriere Fiorentino, a sollevare il fatto che ci sono 5.700 appartamenti e stanze che sono su questa piattaforma digitale grandissima, monopolista, che è Airbnb. Questa presenza intanto crea un problema di concorrenza sleale con i regolari affittacamere, crea un problema di evasione fiscale, crea un problema di trasformazione anche del centro storico, perché insomma la tendenza dei centri storici delle grandi città a queste condizioni sarà appunto quella di rimanere come un grande albergo fatto di appartamenti e distanze che poi sono disponibili per i turisti, quindi perde anche la presenza umana. Insomma, di tutto questo io penso che sarebbe bene che la sinistra appunto discutesse, o che magari sul comma quinto del Senato, sì, e provasse qualche regola. Questo era il senso. Sui listini di come si è. Mi faccia fare questa battuta. È difficile anche per me capire. Mi faccio fare questa battuta e non c'entra col tema. Abbiamo capito ieri che il nuovo Senato si elegge nel 2018. Ovviamente io ero di quelli che aveva fissato da giornalista il mese in cui scattavano i vitalizi al senatore attuale, casualmente il dicembre 2017. Preciso. Però preciso. Casualmente. Allora, però lei pone un problema tosto e secco di regolazione. Non è un problema tosto. Di regolazione. Non penso che si possa dire di no a queste nuove opportunità, appunto sarebbe pure semplice luddismo. Penso anzi che noi siamo anche un paese, per come siamo fatti e strutturati, che è portato alle iniziative individuali, al gig, al lavoretto, a far saltare l'intermediazione, insomma. Noi sulla sharing economy ci possiamo giocare una cosa. No, però adesso le faccio una prima obiezione. Lei lo sa, sì, per il Giubileo a Roma, poco prima di morire, insomma, come sindacatura, hanno adottato un'ordinanza, lo dico svelando il conflitto di interesse, molto richiesta dagli albergatori iscritti a Confindustria, io sono comunque contrario, appunto con su Airbnb per il Giubileo, e insomma anche lì regolazione, ma insomma hanno spuntato bene le unghie ad Airbnb. Non c'è il rischio che questa cosa si legga, e anche il suo appello, Presidente Rossi, come una tutela dell'industria così com'è, alberghiera della ricezione? No, io penso che la sinistra deve stare sull'innovazione. Ho partecipato anche a un dibattito europeo, le posso assicurare che l'Italia da questo punto di vista è più avanti nel dibattito persino di altri paesi europei, insomma l'Inghilterra, no? Che noi vediamo spesso come luogo a forti resistenze all'ingresso della sharing economy. Ci sono sentito interventi di consiglieri regionali, presidenti di regione molto più duri, insomma, di quanto però Presidente, lei ha detto che questa è forma predatoria di sfruttamento che moltiplica le diseguaglianze. Mi faccia un po' contestare un'affermazione, prima di tutto che parte da una contestazione del mercato. Lei dice è concorrenza sleale, e dall'altra parte dice questa è una piattaforma monopolista. Mi scusi, o una o altra, il no? Fatto che tutte le tasse si pagano, però le tasse sono un altro problema. Questo è un altro problema. Partiamo a monte: monopolista di che cosa? Monopolista dell'offerta di camere dove? In Italia, a Firenze, in Toscana. La Toscana e Firenze vivono di turismo. Io voglio dire, questo non è una forma predatoria di capitalismo, questo è un modo di mettere sul mercato liquido, e questo è il tema della densità e della massa critica, Presidente, non del monopolio. Non mi confonda un monopolio che è un vincolo, come dire, alla competizione, con la massa critica che invece è liquidità del mercato. E noi diamo l'opportunità ai toscani e ai fiorentini, ma a tutta l'Italia, e in effetti i numeri ci dicono che gli italiani stanno aderendo a queste piattaforme, di sfruttare meglio i beni su cui hanno investito le loro case. E perché questo lo vede come sfruttamento delle disuguaglianze? Però anche lei riconoscerà che su questo bisogna intervenire, insomma, bisogna intervenire con la regolazione, altrimenti non è nemmeno giusto che ad esempio una città si trasformi in un'immensa rendita. Questo purtroppo è già accaduto per quanto riguarda Venezia, rischia di accadere anche per altre città, in un'immensa rendita dove l'unica cosa che rimane è la presenza del turismo, delle attività legate al turismo. Ma questo però non è un problema di Airbnb, questo è un problema del modello urbano e del modello, diciamo, se vuole, proprio di mix di attività. Non penso che Firenze corra questo rischio assolutamente. Noi abbiamo fatto una legge che dice smettiamo di costruire l'espansione edilizia, appunto, dissennata, che in Italia ha distrutto anche il territorio, il paesaggio. E quindi teniamo la larga ai turisti. Cioè, Presidente, ma sta dicendo una cosa. La rendita si forma attraverso, appunto, questi meccanismi incontrollati, meccanismi anche monopolisti, perché si tratta di un monopolio. Beh, però Presidente, ma di che monopolio parliamo? Quello della piattaforma o quello delle persone che invece il versante delle persone che affittano il proprio appartamento, come le dobbiamo trattare? E soprattutto, come si fa secondo lei a spezzare il monopolio della piattaforma operativamente? Così magari riusciamo a capirci meglio. Questo tema della filiera corta digitale ci interessava. Ma si potrebbe lavorare, appunto, a predisporre intermediazioni che sono legate a piattaforme digitali, legate a città, legate a ingressi anche di carattere pubblico che vengono offerti, stabilendo dei limiti a queste forme di monopolio e stabilendo anche delle regole che contrastino l'evasione, che contrastino. È tutto tracciabile, no? La cosa bella di internet è che si può tracciare tutto. Io credo che le cose vadano approfondite trovando poi un giusto equilibrio che bisogna trovare, altrimenti senza regolazione questi fenomeni non mi sembrano in sé positivi. No, ma il problema non è la regolazione, il problema è vedere il modello che uno ha in testa, nel senso che se Airbnb, come su questo, o BlaBlaCar, altro segmento, cioè queste grandi piattaforme diventano grandi perché è la scelta libera individuale che unisce domanda da una parte e offerta dall'altra, che trova interessante, e soprattutto la massa critica significa la quantità di offerta e domanda che nelle proprie libertà e distinzioni, differenze di propensioni e di caratteristiche, lì trovano il modo liberamente di incontrarsi. In realtà nessuno ha impedito, e ci mancherebbe, Presidente, fino a questo momento, dalla piattaforma nazionale per incentivare il turismo in Italia alle grandi città di turismo e di patrimonio culturale, come Firenze, Venezia e così via, di dotarsi di iniziative paragonabili. La realtà è che ovviamente... Quindi monopolio non c'è, intendiamoci. Assolutamente non c'è monopolio. Però come si capisce quando qualcosa di simile è stato fatto? Fino a questo momento il mercato, dovendo confrontare la più ampia offerta possibile, ripeto che incrocia domanda e offerta, va su quelle. Allora, io quello che, siccome capisco il suo punto di vista, quello da cui parte, quello che vorrei capire è poi come si fa, cioè bisognerebbe intervenire anche sulla libertà in realtà di chi ha gli appartamenti, se non ho capito male, dicendo... Bisognerebbe spiegare il fenomeno e stabilire delle regole, cosa che compete al Parlamento italiano, compete al Parlamento europeo. Credo trovando il giusto punto di equilibrio, le posso dire, anch'io ho una casa in centro, a questo punto comincio anch'io a pensare, ma perché non mi prendo una casa in periferia e acquisisco in questo modo un differenziale, magari senza pagare tasse, magari senza dover rispondere a niente di nessuno. Per carità, di tutto si può discutere, è giusto, è sbagliato. Le dico che questo ha degli impatti piuttosto forti, no? Sull'assetto delle città, sulla libera concorrenza. Lei mi pare è giustamente interessata al mantenimento della libera concorrenza. Ci sono persone che vivono che fanno gli affittacamere, società di intermediazione che si sono create, ben inteso, non si tratta di difendere quello che accetto del dibattito è che non bisogna dividersi in parti contrapposte, cioè è come la classica cosa di Uber e dei taxi, cioè chi dice io sono per la liberalizzazione, riconosco però che fa finta di non vedere che c'è stato un mercato secondario della quota che paga il tassista per comprare le licenze, è impensabile, cioè se io intervengo liberalizzando devo dire lì c'è un valore impegnato, a volte con mutui trentennali di gente che ha perso il lavoro, ha impegnato tutto e lo riconosco. Chi dice io sono contrario, capisco la sua reazione. Perché mi verrebbe da dire anche a me, ma insomma se io uso l'auto per spostarmi, auto privata da Pontedera a Firenze tutti i giorni, e mi metto d'accordo per montare delle persone, ma c'è qualcuno che deve interferire con me proprio su questo tema, perché lo Stato si introduce e interferisce? E quindi insomma la questione è senz'altro complicata, trovare i punti di equilibrio non è affatto facile. Però a me è piaciuto molto il tono con cui ci siamo confrontati, perché questo è il modo per fare passi avanti, perché altrimenti noi non usciamo, non avremo liberalizzazioni e avremo vecchie strutture a bassa produttività, e che è la cosa che non fa bene a nessuno, né ai centri urbani, né ai modelli di sviluppo urbanistico, né al turismo, né al PIL, a nessuno. Però una moderna sinistra, come dice il Presidente, deve avere a cuore l'equilibrio, ma non... non scambiare lucciole per lanterne, cioè scambiare monopolio per massa critica. Coraggio, va bene, Presidente. Intanto ringraziamo Enrico Rossi di essere stato con noi. Noi torniamo 3 minuti e torniamo a occuparci a questo punto della sentenza invece su Facebook dell'Europa e con le vostre telefonate. A tra poco. Della belva. Eccoci tornati in diretta a 11:36, primi 49 secondi, compare dei Conti della Belva, Oscar, Carlo Alberto e Mario. In questo sabato 10 ottobre, intanto il bilancio è sempre più spaventoso ad Ankara per questo attentato suicida che c'è stato alla manifestazione per la pace, ma come capirete, insomma, in Turchia man mano che si avvicina di nuovo la scadenza elettorale, con Erdogan che non ha voluto fare il governo di solidarietà nazionale, non vuole chi rappresenta i curdi, che lo ha messo sotto rispetto alla sua maggioranza assoluta, ohimè, purtroppo avremo vicende molto molto delicate. Allora torniamo alla nostra digital sharing economy. Dopo l'intervento del presidente della Toscana, lo avete sentito, duro, lui vuole una regolamentazione, dice la sinistra non può accettare queste piattaforme che disintermediano a livello mondiale, dobbiamo inventarci delle piattaforme digitali corte locali, pubbliche possibilmente. Enrico da Firenze, che pensa? Sì, salve, senta, io sono nuovo del settore, però non ritengo che ci debba essere regolamentato, le spiego il motivo. Io non sono nuovo, ho studiato per quanto mi è capace, quando sono capace, e ho visto che noi siamo regolati dal codice civile, cioè qui si parla di locazioni, sì. E come tali dobbiamo pagarci l'IRPEF normalissimo e ci paghiamo anche la tassa di soggiorno, che tra l'altro è Comune di Firenze, 2,50 euro. Un'ulteriore regolamentazione è veramente inutile, cioè non voglio dire a me Rossi mi sta simpaticissimo, per carità, però io sono di Firenze, cioè io le tasse le pago tutte, lei tenga presente, io pago 5 euro al giorno di tassa di soggiorno al comune. Non proprio poco, insomma. Tenga presente che la gente mi cancella le prenotazioni proprio perché non... 5 euro sono tanti. Lo so, ma questo è il peso comparato dello Stato rispetto al resto dell'offerta turistica. Il nocciolo delle obiezioni di solito che vengono da sinistra alle grandi piattaforme è che non pagano loro, quelle delle piattaforme, le tasse in Italia, no? Perché non hanno stabile organizzazione qua, eccetera, eccetera, eccetera. La digital tax, che prima era stata annunciata e data per certa una legge di stabilità, poi Renzi si è rimangiato, si è capito perché al G20 ieri è stato confermato l'accordo, trovato sul giornale di oggi, per un ulteriore passo avanti in sede OCSE e Fondo Monetario, di una piattaforma comune sulla tassazione anti-elusione, che è l'unica strada da seguire, non quella delle tasse nazionali. Però la sinistra su questo freme quando gli dici Facebook, Google, eccetera, eccetera. E tra poco quindi approfondiremo anche questo argomento della sentenza della Corte Europea. Sentiamo ancora una chiamata che viene da Torino, spero di non sbagliare il nome, Joari. Sì, pronto. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Sì. La pensi come il presidente della Regione Toscana o no? Il presidente della Regione Toscana mi è sembrato abbastanza ragionevole nelle sue considerazioni. Ha parlato di opportunità e questo sinceramente lo condivido. Il mondo di Airbnb, come un po' diversi social che abbiamo oggi, pongono questa sfida, no? Il fatto che gli utenti possano avere un contatto diretto, sì, con chi offre, sì, l'offerta sia allargata in modo più ampio, e in realtà si servono si vengono soddisfatti dei bisogni diversi rispetto eventualmente a un hotel o a delle strutture alberghiere, e quindi in realtà si ha un'offerta maggiore sul mercato e utenti anche diversi, in cui il fatto di avere una certa reputazione sul web ha un ruolo chiave. E non per forza si vanno a identificare o si vanno a intercettare, esatto, gli stessi tipi di utenti. No, in esatto, questo senso è positivo ampio come cosa. Appunto, io temo che con la regolamentazione, con l'idea di vincolarli al pubblico e al locale o al nazionale, noi commettiamo un errore. Però questa è la mia idea, io sono molto più non solo commettiamo un errore, non si fa mercato, perché l'idea che tu possa farti l'app che massimizza l'offerta locale con la domanda locale non va da nessuna parte, per il principio che serve massa critica. La massa critica di mercati molto più ampi che quello della giurisdizione del singolo politico che ha in mente la sua app statale. Mi spiace. Però ci saranno dei fiorentini desiderosi di viaggiare e visitare altri quartieri di Firenze. Esatto, potremmo e fare pertanto ci sarà questo spostamento intraurbano. Non fare, diciamo, un'ironia così sottile che qualcuno poi alla fine ti prende alla lettera. Allora, in questa generale confusione e di grande consenso che viene alle reazioni da parte degli ambiti molto regolamentati verso altri meno regolamentati, si inquadra appunto la sentenza della Corte Europea di Giustizia, che ha preso una precedente decisione della Commissione Europea. Il problema è fidarsi o meno della validità della protezione dei dati personali negli Stati Uniti, e ha detto, a proposito di Facebook, ma insomma vale non solo per Facebook, neanche per Idea, no, lì non siete un paese che tutela i dati, quindi su questo bisogna che voi tenete conto che i dati devono rimanere nei confini nazionali, nel nostro ambito dei 28 diversi ordinamenti di tutela della privacy, che a me sembra anche qua una posizione delirante. Grande sostegno in Italia però a questa decisione, perché come al solito dice, ci ha detto l'operatore che ha telefonato prima, noi siamo iperregolamentati, e che cavolo, perché loro devono tenere le mani libere? Allora parliamone con Massimo Russo, che a mio giudizio all'indomani della sentenza tra tutti i giornali italiani, io lo dissi la mattina dopo in Attenti a noi due con Alessandro Milan, che tutte le mattine co-conduciamo dalle 8.15 alle 9 su Radio 24, dissi questo è, a mio modestissimo giudizio, la migliore analisi e il miglior commento uscito sulla sentenza Facebook. Grazie di essere con noi a Massimo Russo, buon sabato. Grazie a voi gli ascoltatori, buongiorno. perché secondo te da una parte questa sentenza che fa a pezzi un orientamento precedente che mi sembrava positivo e dall'altra i tanti applausi che ha suscitato in Italia e in Europa? Ma perché viene iscritta in una narrazione, perché oramai tutto viene iscritto in narrazione, in una narrazione che dice "Bah, questa è la vittoria di Davide contro Golia, questo ragazzo austriaco che improvvisamente mette in ginocchio le grandi piattaforme", senza capire che in realtà ci sono due grandi problemi che questa... Il ragazzo austriaco era colui da cui nasceva il caso giudiziario. Sì, assolutamente. Ci sono, dicevo, due grandi problemi. La prima questione è che così facendo si va verso una balcanizzazione non solo di internet, ma del commercio, dei mercati, esatto. Uno spezzettamento all'interno di confini nazionali. E questa è una cosa che ha a che vedere moltissimo con l'economia, ma anche molto con la libertà. Giusto così, tangenzialmente ricordo che stamattina dalla Turchia, da dove stanno arrivando notizie tragiche, la notizia che era arrivata prima delle bombe era che un direttore di un giornale è stato arrestato per un tweet contro Erdogan. Poi, quando pensiamo all'idea che la rete vada normata a livello nazionale, pensiamo in quale metacampo ci stiamo mettendo. Chi ci è riuscito finora molto bene sono la Russia e la Cina. La Russia non a caso ha una legge che prevede che i server debbano stare all'interno della madre Russia per tutelare meglio i propri cittadini, qualsiasi cosa questo significa, e la Cina lo sappiamo col suo grande firewall. Diciamo la Turchia si sta esercitando molto bene, quindi pensiamo in quale metacampo vogliamo stare. La seconda cosa ha invece a che fare non con le grandi piattaforme e lo schiaffo presunto che avremmo dato loro, ma invece con la vita di tutti noi, la vita delle nostre imprese, ma anche la nostra vita di singoli. Da mattina noi ci alziamo, mettiamo la nostra musica su un qualsiasi servizio di streaming e questo servizio domani non funzionerebbe più perché i nostri dati per questa cosa vengono custoditi negli Stati Uniti. Utilizziamo il nostro bancomat, la nostra carta di credito e questo non funzionerebbe più improvvisamente perché le grandi società di credito triangolano i propri dati e molto spesso ce li hanno custoditi in server negli Stati Uniti. La piccola azienda che oggi riesce a ridurre molto i suoi costi per fare e-commerce o per avere un sito web, domani non potrebbe più farlo, esatto, perché non potrebbe più usare il cloud di Amazon. Esattamente, perché sta negli Stati Uniti. Io ti ringrazio perché più fai questi esempi, più la gente capisce. Cioè, non stiamo parlando di tecniche di regolamentazioni per iperaddetti ai lavori nell'ambito di imprese. Stiamo parlando di vita quotidiana. Stiamo parlando di un impatto operativi sulla vita di ciascuno. Questa attitudine dei politici e dei burocrati, a cui applaudite molti di voi le mani, che vogliono utilizzare schemi burocratico, politico, fiscali figli dell'Ottocento, dei confini nazionali, anzi dei confini intranazionali, regionali, cittadini, fa a pugni con l'idea dell'ottimizzazione della libertà, della domanda e dell'offerta su cui va oggi avanti il mondo. Poi uno può decidere di tirarsi fuori in nome di quei valori dell'Ottocento, ma sta facendo, cari ascoltatori, un danno di incalcolabile impatto a tutto ciò che in questi anni vi ha fatto stare meglio, non peggio. E guardate, a me dei bilanci di Facebook o di Google, cioè non mi importa in questo momento, qui si tratta di un problema di ordine generale. Non faccio il predicatore, ma mi preoccupa molto l'applauso che dai media dell'opinione pubblica viene a questa richiesta di tornare all'Ottocento. I confini, le tutele frazionate, il dire no alla libertà della rete e all'incrocio tra domanda e offerta non ha a che vedere con l'evasione fiscale, perché per quello ci vogliono mega accordi appunto globali che identifichino dove ci sono le organizzazioni, dove si produce il reddito e quindi la tassazione. Ha a che vedere con la libertà. Io per questo ringrazio Massimo Russo davvero, perché l'ha scritto nei termini giusti e ve lo ha ripetuto nei termini giusti. Non vi vogliamo convincere noi dai Conti della Belva, però noi la pensiamo così. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta per questi ultimi minuti dei Conti della Belva in questo sabato 10 di ottobre. Abbiamo ancora un ascoltatore che va premiato per la sua costanza, perché ci sta aspettando da quando abbiamo parlato dei temi della produttività e dei contratti bloccati. Luciano da Biella, che mi è molto cara tra l'altro. Luciano, prego. Ma noi ci conosciamo, Oscar. Io sono Luciano Barbera. Ah, no, beh, ci conosciamo bene, sì, allora. Allora posso dire, Luciano Barbera è un eroe della tutela del ma un eroe vero per le battaglie che ha fatto. Ti va riconosciuto, ma tutti quelli che si occupano del Made in sanno di che cosa stiamo parlando. Allora, ti ringrazio. No, il mio discorso è molto semplice. Io tu sai che ho 77 anni, quindi ho vissuto l'epoca d'oro delle esportazioni italiane negli anni 60, 70, 80, quando si girava il mondo e tutto quello che veniva dall'Italia era messo sugli altari. Io da qualche anno sento solo parlare di ricerca, innovazione, come se fossero cose che le piccole e medie industrie di cui gestisce, cioè l'80% della Confindustria è formata, fanno quotidianamente, perché senza ricerca e innovazione queste piccole e medie industrie non vanno assolutamente avanti. Adesso si parla di produttività. Io dico, scusatemi, ma la produttività non è la formula per le piccole e per le qualitative produzioni. La produttività anche lì ci deve essere, ma non può essere esasperata come nelle produzioni di massa. Certo. L'Italia, voglio fare solo un esempio, la Fiat e la Ferrari. Io penso che quello che si ricerca in Fiat è ben diverso, esatto, da quello che si ricerca nella Ferrari. Come diciamo all'inizio, anche per noi la vera risposta al problema sta nel denominatore, non solo nel numeratore. Non possiamo vincere con la concorrenza sui costi, noi dobbiamo vincere con la concorrenza sulla qualità. Questo è il punto. Dobbiamo salire nella parte alta del valore aggiunto delle catene internazionali in cui i prodotti italiani, i servizi italiani stanno nel mercato mondiale. Quindi da questo punto di vista la pensiamo assolutamente come Luciano da Biella, che è un eroe sul campo dell'impresa tessile eccetera eccetera nella storia italiana. Quindi grazie davvero, mi hai fatto un piacere enorme telefonandomi, non sapevo che era lui, posso garantire. E a questo punto dobbiamo andare con Renato Cifarelli, che ci ha raggiunto per la sua solita rubrica Non si può fare. Innanzitutto, Renato, come stai? Buongiorno da Milano oggi, però sono impegnato con un'altra cosa e quindi non ce l'ho fatta venire a trovarvi. Devo dire che sono assolutamente d'accordo con Luciano Barbera, grande imprenditore del tessile, su quello che ha detto. Allora, che pillolina ci riservi, no, di quelle avvelenate? Ce n'avevo un paio, una per te, Oscar, che so che come me ami tantissimo la buona gestione della cosa pubblica. Certo. Alla SM di Pavia, quindi nel mio capoluogo di provincia, le province non esistono più ma il presidente c'è ancora, quindi è ancora capoluogo di provincia, ci sono persi per strada 1.600.000 euro che hanno pagato al comune attraverso assegni a non si sa bene chi. Questa è la gestione della cosa pubblica che abbiamo in Italia. No, cari ascoltatori, davvero non si sa bene chi, perché la risposta, una volta emerso il fatto che questi soldi non ci sono e che quindi qualcuno li ha dirottati, è stata: devono averli dirottati su un finto conto intestato a, ma loro non se ne rendevano conto mentre avveniva. Beh, però peccato, perché io pensavo che Pavia fosse amministrata un po' meglio, Renato. Sai, però sono le ASM quelle a cui abbiamo dato l'acqua, quelle a cui, esatto, diamo i servizi in house, quelle a cui diamo tutta una serie di cose di monopolio, perché non dimentichiamo che sono aziende che lavorano in monopolio e che non si rendono conto neanche se i flussi di cassa attesi vanno su altri conti. Se ne rendono conto solo una volta che la cosa emerge e viene contestata, loro dicono: ops, deve essere su un finto conto, sai, che non è il nostro. Io sto lì a controllare quando pagano 200 euro se c'è un nome che non mi quadra, figura. Vabbè, comunque, senti, invece una cosa che volevo raccontarti è sul rispetto e la professionalità. Visto che oggi parlavamo di lavoro in trasmissione, anche se io purtroppo non ho potuto partecipare. Noi abbiamo un'azienda stagionale e quindi cosa facciamo? Prendiamo un po' di gente in somministrazione durante il periodo di forte lavoro. Qualche settimana fa abbiamo avuto una persona che ha fatto il colloquio. Questo lavorava come precario nella pubblica amministrazione, ha detto che era stufo di fare il precario nella pubblica amministrazione, era di finirla, tutte queste cose qua. È piaciuto alle persone che gli ha fatto il colloquio e abbiamo deciso di prenderlo. E quindi abbiamo programmato il corso di sicurezza, perché tu sai che per assumere una persona devi fare il corso di sicurezza e la visita preassuntiva, perché deve andare dal dottore a vedere che sia tutto a posto. Secondo te cosa ha fatto questa persona? Non si è presentato, ma non ha telefonato, non ha detto, non so, guardate, ho cambiato idea, una qualsiasi altra cosa. Alla visita preassuntiva il dottore ha telefonato e ha detto: guardate, qui non si è presentato nessuno. Al corso della sicurezza ha telefonato e ha detto: guardi, qui e non perché? È telefonato nessuno. Sono riusciti a recuperarlo dopo 2 giorni e lui ha detto: no, ma ho ricevuto un'altra chiamata dalla pubblica amministrazione, ha detto di andare là. Allora, quando si dice che le aziende non rispettano i lavoratori e tutte queste belle cose qua, bisognerebbe ogni tanto che anche le persone rispettassero il lavoro delle aziende, perché dall'altra parte c'è un altro lavoratore, quindi magari un responsabile delle risorse umane, degli impiegati, eccetera, eccetera, che anche lui, tutto sommato, andrebbe rispettato. Eh sì, magari una comunicazione invece solo di sparire. Ma queste... No. Queste sono cose che purtroppo accadono molto più di frequente di quanto la gente pensi, e sono quelle che poi, quando chi interroghi gli imprenditori come me e gli dici non c'è lavoro, tu cosa ne pensi? Questi ti dicono non c'è lavoro per chi... Ah no, magari... è chiaro, e seguono poi rispostacce. La realtà, concludiamo con questo, la civiltà del mercato non è solo la superiorità delle sue risultanze economiche concrete rispetto all'economia pianificata. La civiltà del mercato posto una civiltà delle relazioni, perché è fatta di incrocio tra persone e desideri. Senza civiltà del rapporto viene meno uno dei presupposti per cui il mercato funziona e funziona bene. Sembra una cosa da Padre Pio, no. Però in realtà è esattamente e così. E le relazioni non stanno scritte sulle leggi, esatto, ma stanno scritte bravo, nel codice etico, bravo, di ciascuno bravo. Di noi. No ragazzi, ma qui dobbiamo esatto, al posto della messa campiamo. Dobbiamo prendere i voti, no, no, ma non quelli delle elezioni, altri. No, beh, non è un appello a Padre Ciaramsa, ecco, vorrei solo dire questo. Buon sabato a tutti, continuate con